c'è di cazzo in testa, no veramente, te sono fresco, dai. Ma te mi sei sparato in testa, dove c'è senza la fuori l'amore, no? Ah, oh, avete scherzato. Ma tu non mi più di noi, pompa, la matta di Nivaria, focaccione. Come sei in punta, si viene a vedere come sei in punta. Pompo, mi stava prendendo un rischio di infarto, la verità, sono sincero. Oh, yeah, yeah. Lo so, che per compare. Che cosa? Non te la fai, cioè, è impossibile che sei 12 anni che non fai niente, che cosa resta, cioè, appena, va. Pompo, ma la pellicola ti funziona, sì? A me ne funziona, io sono stamattina, Antonio l'ho detto anch'io. Per carità, guarda. A me lo ripeto un pochettino, questa parola da cazzo, però è forte quel portiere qua, hai visto? Ah, Rodo gli ha parato un gol. Niente, già va bene. Dai, continuate, dai, già sono qua io. Sai che ti ne ingravidato un buon po', la massa di Nivaria, mudu, va, zighi del molla, ciao, invece grazie, vero buon po'. Sai che ti voglio rimanere sparsi. Ecco la niente, la verità. Dimmi un caso, un buon dalmata, pomponio. Un dalmata? Ma c'è che attacco un processore, sì. Oppala, che ho sentito il processore, cosa hai detto? Sì, sono buona pomponio, un dalmata. Sei ricordo quel dalmata che ti ho mandato su WhatsApp? Più che un dalmata è una gurura. Oh, pomponio, va. Quanto sono? 80esimo. Più o meno. Poi sono 10 minuti di gioco, ecco. 10 minuti puoi fare 6.000 gol. Mi nomi. Cioè, tira di lungo. Mi nomi. A Marco Scotto, là. Cosa hai detto, già? Ho detto, chiuso, là. Boh, non lo so, non ho ripreso più. Forse sta trovando qualche radio da mettere in funzione. E ma io finito la partita mi furico perché domani ce l'ho a fare. Devo andare presto, vado in ufficio al mio cognato, c'è un sacco di cose da fare. Pure io mi... anzi, mi sa che vi saluto, là. Poi mattina viene mio fratello a prendermi, dobbiamo smontare la stufa. Se riusciamo a cambiare la candeletta, perché così non ci può stare, da accendere la stufa a pellet con la diavolina, non esiste, da, non fa. E niente, da, buonanotte ragazzi, alla prossima, da, ci siamo fatto due risatine, da, con Pomponio, solito per Maloso, va bene, da, allora, purtroppo i gusti, devo dire i gusti a Pomponio, ciao Pomponio, riprendi, ciao. Eita. Mi spiace, guarda, la verità che non si accende la caldaia. Non ti preoccupare, sarà la prossima, non ti preoccupare. Cato qua, magari se te lo sei capitare qualche domenica, passi per la pompone e scendi giù, dai, ci beviamo la cosettina là. E scendi, pompo, scendi con Claudio giù a casa della 25. D'accordo, non c'è problema, lo sai, con Claudio non c'è problema. Ma se non mi ripi tutto, già c'ho la birra, c'ho il vino, c'ho la crema di whisky, già c'è roba da bere. Vabbè, quello... non ti preoccupare, basta che sia rossa, se sia arancione non c'è problema, perlomeno, se no, se è rossa siamo incappettati tutti e due, io e Claudio. Filippo. Facciamo l'affare già. Ma fa un culo, cazzo te la. Se rimane, ragazzi, se rimane a Filippo. No, no, no, non c'è andato bene. No, devo non fare niente. Cazzo se faccio la uscire con Filippo, cazzo. Il cane che c'ho io, cazzo. Ci vediamo, portate il cane a pisciare, cazzo. Ma vabbè, a un certo punto ci mettono in galera. Buon poco, Filippo, ma mi chiudo la grossa, vabbè. Appena. No, di lingua, batti, Filippo. Ma la riga pare un tubernato. Già facciamo la fare, cazzo. A un certo punto, meglio niente qua. Quarantaciesimo. Segnato anche. E a Ramsey. E a andava. No, faccia per lì, andava un par di... ultimi minuti di segna la Juventus, per carità. Non è quello ultimi minuti, perché un pallone recuperato lì, cioè, ha avuto fortuna, l'ha buttato dentro. Non si gioca così, guarda. Cioè, stai attento che il Sassuolo in 10, tutto il secondo tempo in 10, sono desi contro desi a Torino, ma di cosa stiamo parlando? Vabbè. Come diciamo, la palla è tonda. Vince chi fa gol. Vince ma non convince, gli altri mi convincono, ma la Juve non mi convince. Gianni, ci sei? Ancora ci sono. Beh già, liquidata l'hai. Sta correttando anche il telefono. E adesso che il telefono finisce adesso. Capo, capo. Nuovo lavoro, in un'azienda? No, è un albergo. Mamma mia, prima il pareggio da Rosa solo. Oh yeah. Vabbè, comunque. Mango le ciance. Ce la siamo qua. 11-25, cioè. Adesso appena finisce la partita. Me ne vado a salone un po' di TV e poi me ne vado a nanna. Ciao raga, dai, io non le prendo più. Ciao Gianni, Antonio, Antonello, Luca, Marco, se sei ancora in ascolto. A domani signori, ciao ciao. Ciao ciao cra. Ciao. Ciao, ciao, buonanotte cra. Ma dov'è a trovare? Io? No. Che lavoro domani? Oh, ma guarda, la sveglia sono anche io, tra poco come. Mi si cocco più bene e troppo. E anche la sveglia? Alle 5.40 la sveglia. Da voi una stessa ora, mi posso riconoscere, ma devo una stessa ora a parto e via. Ma dici spesso che era? No, non ne uso, no, no, ma dei trappi. Ed è stato c'è bello, va. Fanno troppo Eva, attento io però non la uso, preferisco non usarla, l'ho usata solo l'altro giorno, l'ho utilizzata perché dovevo andare a fare una cosa e buh. Ma a che ora è, perché il primo volta ma che la parte? Beh, io la prendo verso le 7 così, domani come se già un dram dram, un giramento di bala, non devo dire parolacce. È andata con la guida. Ma tu, ma quando è che la dai questo campo di 10 anni? Ma se tutto va bene, a metà mese. qualche di Riccardi, Martin. Io sono abituato diversamente, con la battuta pronta, sono un po' diverso, quindi chi si sente qui? Sì, sono signori, come signori. Che ci metti gli ultimi davamo e vanno, tutti in alto una manica di broci. Sono tutti strani, tutti ricade. Sarò di un'altra generazione, sarò però. Io dipende anche magari dopo è cresciuto uno che ha detto film, capito? O come te è vissuto lì, non veloce, deve essere prevenuto, sapersi difendere, invece uno che vive per dire in via si può dire luna e sole, così tranquilla, capito? Siamo più tranquille come persone. Sì, infatti un po' di volte che più conosciuto bene a tanto, perché io ci farò qualcosa, loro sono troppo delicati, troppo cosa. Qualche battuta mi si capa e mi ce ne risate, mi ha dato. Ah, io sono abituato, cioè io ho un altro modo di fare già. Cioè, è diverso, capito? C'è un'altra mentalità. Pensate che oggi parlassi a scuola. Sì, che cosa ne ha dato di ammesso e scappata? Non me la fatti nulla, cioè sono fatto così, sono fatto, dopo anche da maniera, cioè io. Anche con i clienti, li attiro perché ho un modo di fare tutto particolare. Cioè, sono proprio anche da maniera, la zerragona. No, non me ne ha fatti nulla, io sono molto, ho fatto così, cioè se uno viene la prima volta, cioè viene anche la seconda, perché li tratto bene la gente, però ho fatto un po' con gusti, cioè, alla show, sì, alla buona, diciamo, mi sentite bene, non metti lì. Se mi viene in mente anche battuta, barri di così. Ma capito? Molte cose lo devono grazie a me, perché io li tratto bene la gente. Non ci vai d'accordo con me, cioè, se sei uno di chi si muti come. Vabbè, non c'è il suo carattere. Anche io sono fatto così, la battuta piace anche a me, parla sempre determinati luoghi e determinate persone, cioè se io ho confidenza con te la battuta la faccio, se sono in un certo ambiente e mi riguardo la faccio tu battute. No, sono molto espansivo, cioè se viene anche uno, dammi un minuto, che così, cioè molto più espansivo, cioè io tratto tutti bene, però quando mi fanno delle cose, cioè, ma io sono fatto anche così nella vita. Ti faccio un esempio qua veniva una persona, veniva, e molte volte veniva, era una asilo, era, vabbè, veniva qua a casa un po' di volte, dizia, cioè venivo io, sta arrabbiato, di trattenersi a mangiare cosa. Un giorno mi ha girato la faccia, mi si è comportato malissimo, hanno fatto delle cose da proprio da barbari. Qua dentro l'ha detto, dal giorno tu non ci metti più piede qua. Cioè, vai garagicina a te e che ti è creato un muro. Basta. Ma dal giorno non ho voluto più che venisse qua a casa. Ma già te lo racconto cosa è successo, roba da matti, cioè devi fare la regia. Io una volta ho invitato degli amici a mangiare e stavo facendo il ragù e questa ragazza mi ha detto no, a me sugo non me ne mettere perché non mi piace, io li mangio in bianco. E il bianco ho detto, non ce lo sa un po' di bianco, e non me li mangio solo così in bianco. E poi ha cominciato a mangiare, questi ragù mi è capitato anche a me una volta. E ti fa una cosa, se non ti piace dici che c'è a tavola, mi, quella è la porta, ciao, arrivederci, buon viaggio. C'era qualche festa, ho visitato un po' di gruppi di amici miei, eravamo montati, allora lavoravamo in un po' di vita. Eravamo montati, era una bella tavolata. Stavamo scherzando a vedere, perché era l'unica parte. Non avevo più masticata dei commenti, ma comunque era la ragazza di un amico mio e la dovevo sopportare perché con l'amico io l'ho invitato, quindi mi manchi lì. Ma questo aveva un carattere di merda anche con lui. Io ho capito, ma quando è così a caso gli altri, giustamente, come dici tu, non so che si comportare, per avere un po' di educazione, invece molti pensano di essere a casa sua, capito? Luca, ci sei, 3-1 ha vinto la Juve. Io Claudio, a volte ho mangiato roba che a me non piace a casa d'altro, però non mi sono mai permesso di dire questa cosa non mi piace, capito? Dice, non ne voglio mangiare, no, lascia perdere, che ho già mangiato abbastanza, se no poi ingrasso, non la voglio che si scrive, però mai ho preso da nessuno. Ma infatti, infatti, io mi ricorderò sempre una volta ad Alghero, sono andato a casa di mia sorella e c'erano altre persone che io conoscevo, ma non di certo erano amici miei, erano amici di mia sorella e mio cognato. E mia moglie aveva fatto il tiramisù, molto buono, perché lo sa fare buono. Un giorno è capitato che era un pochino più liquido rispetto al solito. Sapete che l'ha portato arrabbiato, esordito, che cos'è questa cagata? Non l'ho preso. Io ho guardato mia sorella, già lei mi ha puntato e mi fermo. E perché cosa c'è da vedere? È troppo liquida, non è così, non si fa così. Dove... Mi sono alzato in piedi e ho detto, ascolta, ma ti piace? Non è troppo liquida, allora la battito se non ti piace. Ma era sbagliato qualche cosa, hai capito? È così, la verità dicono così, però Mariana ha messo un po' più di latte, non lo so, cioè l'ha girato troppo, capito? Ma non c'è bisogno di esordire in quella maniera. Infatti tu mi fai una cosa, mia sorella, quando ci sono io a queste persone, non le chiamare, che sono i miei vicini, che non me ne putti nulla, allora tieniti a loro e io non ci vengo. Mi è sceso dalle balle proprio, capito? Una persona così viscida, perché dai, col muccio sotto il naso, che boh. E quindi Antonio, vai, io sono andato a salutarvi definitivamente, la partita è finita, la Juve ha vinto 3-1, Antonio, quindi mi dai Luca, faccio un brodo, e va bene così, dai, ci sentiamo, ciao Gianni, ciao Antonio, Luca, Marco Condo, Trecce Ballacche, Giulio Lola, che c'è ben ascolto, lui. Ci sentiamo, buonanotte a tutti, a domani, ciao ciao. Ciao ciao ciao. E vabbè, tanto vita non c'è, ma chi deve essere andato a fare la notte? Il mio collega si assenta per il battaglio pure la notte perché il gioco. Ma notte, in albergo, qui in portineria. Lì si sta le camere. Ah, per quello. Via. Lascia perdere, guarda, stavo parlando con il mio collega oggi già, 16 squadre, da due squadre, 16 squadre col Covid ci sono nell'azienda che lavora qui, sono disperati, Claudio rientra, sì, domani, arrangeteli, dai, ciao, buonanotte. Wow, è avanti. Stavo mandando una cosa a un amico. E comunque questa qua, cioè prima veniva qua, io la trattavo come... come una sorella e poi mi ha girato la faccia. Che la gina nel corto, che la gina nel corto mentre gli ha la gliadina, per carità. Allora, per carità. La vita continua, tanto anche se sono lì quindi lo stesso. E comunque la mano attaccata me ne sono dimenticato. Mamma mia, che capo. Io sono stanco. Allora so come intendo. So come intendo a diventare stracco. Oggi ho dormito bene stanotte, la verità. Io devo andare dal dentista adesso, il telefono domani, ci ho scherzato un bene. Cazzo, guarda, tu da fare. Ecco, i tocchi di Dina. Quelli di sotto, però si vede. Si vede. Non voglio lasciare così. Non mi piace. Ma guarda, tra tutti la nuova, che non ci sono stati. Sai che ci sono tocchi, mi piace. Guarda, sarà minimo, minimo. Comunque ci hanno delle tariffe troppo esagerate, tu papà 400 euro devi travagliare e fatti un muro, questa gente cioè, se li fa così come niente fosse, io non sono d'accordo. È bello che non si fanno manco fatica, se non è c'è un loro e non è giusto questo. Se ne fate di poco di naghi si maniacci, perché no, non può esistere, non può. Infatti già vanno in barche, vite, città, non mi manca niente. Io dico, se uno mi fa onestamente i studiati, se è ricco, che mi fa onestamente, nessuno mi dice ricco. Però quando uno comincia a fare quelle fatture giusti, che non è ricco, l'unico scemo a farti la fattura quando gliela chiedi. C'è bisogno di un telefono registrato per portare la finale. Carità. Però non va bene comunque quello che fanno. Edoardo, c'è buttata, la deve rilasciare. Adesso che mi hanno attaccato tutto il tempo, ma non io, ho chiesto un metodo, ma devo scaricare questo 3-3, come fai di scaricarlo? Lo devo scaricare. Troppo buono. Comunque ce ne sono bravi che prendono di meno, Guarda, io adesso devo andare da Basette, che è uno di più. Basette c'era anche Anghero, c'era anche Fatti, non c'era solo Sassi. È caro, però parla un po' bene perché l'ha fatto i suoi amici, l'hanno molto là. Questo piccato che proprio te l'ha pure a me, mi sei facendo tutto tanto, mi sono chiamato lì. Oioioi. È un casino, sono un bel disidato pure. E qui un sacco di soldi ci vogliono. Non me sono poco, quindi andavo a venire, mi si spacca la braccia, un cazzo per poco lo vedi tu. Cazzo, non ho fatto per questa cosa. Mamma mia. E poi la fai tu. Se te ne ricordi, tu cazzo. No. E un sacco di soldi ci vogliono già. Mamma mia. Un benzina. E che caiette di padre, usci di padre. Mi dà fastidio, mi dà. Oioioi. No, Danila. Adesso non lo so se si possa aggiustare, ma non penso, perché è amalgamato qui. Non lo so se si possa aggiustare o no. Però proprio so come si tende la lingua. Perché non ci sono i tutti, mi posso trovare in qualità, non fanno male. Succede, ti fate male. Casino. Beh già, mi sa che è giunta l'ora, dai, sono un bel stanco. Dai, buonanotte, ce la risentiamo, ok? Buonanotte a tutti. Ciao a tutti, dai. Un bel stanco.